Come si sta, sì. Tione? Bene, bello, sì. Fresco. Poi... Secondo lei i giovani cosa ne pensano degli adulti? Dovremmo chiederlo ai giovani, o no? Allora, ribalti la domanda. Sì. Cioè, i giovani cosa pensano degli adulti? No, gli adulti cosa pensano dei giovani? Gli adulti cosa pensano dei giovani? Poco motivati, poco presenti nella vita politica, poco interessati. Penso questo, sono pieni di risorse, quindi possono fare bene, meglio di noi, perché hanno a disposizione molte più fonti di informazione. Sono più svegli da certi punti di vista, mentre per altre cose forse sono un pochino più indietro di come eravamo noi.